Allora, questo è il giorno di lotta numero... Sono 15 anni. Dopo quello che è successo la scorsa notte a Venaus, cosa cambia in Val di Susa? Che siamo più accaniti di prima. Hanno dimostrato qual è la democrazia in Italia, l'abbiamo esportata in Iraq e qua non c'è più. No? Certo, no, non siamo pienamente d'accordo con te, infatti è una cosa incredibile. Si sono ricordate anche le giornate di Genova, no? Il G8 per quello che è successo la notte scorsa in Val di Susa. Infatti anche noi oggi abbiamo deciso di venire perché... Chi siete? Noi, sono di Milano, di una radio di movimento, una radio che si sente solo in internet, però siamo venuti anche allo sciopero generale quando c'è stata la manifestazione con 80.000 persone e poi insomma torneremo anche domani. Domani c'è la manifestazione da Susa a Venaus, andiamo a vedere un po' cosa hanno combinato là. Il capolavoro del viceprefetto che urlava da su una draga, ammazzateli tutti, uccideteli tutti, schiacciateli tutti. C'erano quattro vecchietti e quattro bambini indifesi, sono arrivati gli eroi al comando del vicequestore, schiacciateli tutti. Una bella democrazia, eh? Cose da pazzi, mai viste. Allora, ecco, adesso vediamo come andrà a finire tutto questo. Sì, è una lotta estremamente importante, poi non so, da fuori viene percepita veramente come una cosa che coinvolge tutta la valle, no? E quindi solo il nostro orto, dicono. No, no, assolutamente. C'è l'orto, qua c'è l'uranio, c'è l'amianto, c'è le radome, c'è tutto. Per trasportare qua le merci, da Kiev a dove? A Lisbona, ma facciamo ridere, andiamo a comprare, andiamo a comprare, importiamo il latte dall'Olanda e qua uccidiamo le vacche perché fanno troppo latte. Poi, non so, i mandarini andremo a prenderli a Kiev o in Cina, dove vuole. Sì, sì, questi sono, infatti sono i paradossi di questo tipo di sviluppo, no? Alla fine, no? Si continuano a trasportare migliaia e migliaia di, per esempio, di litri di acqua minerale, no? Dalla Francia, quando poi abbiamo, cioè, nelle nostre... Siamo in Francia, così vanno avanti e indietro i tir, i camion, consumiamo benzina, Agnelli fa i tir e avanti. È così o non è così? Voi eravate a Venaus ieri sera? Avete avuto amici? Ma lui non può parlare che è maledenti. Ce l'abbiamo un amico che è stato pestato e ancora all'ospedale adesso, uno dei 20 è Fischia. Addirittura gli hanno trovato del sangue nelle urine perché l'hanno bastonato nello stomaco. Si chiama Silvano, poi si è visto anche in televisione. Quello di Vugazzolo, sì. Lui che è un pacifista andava... Vuole portargli il panettone ai carabinieri addirittura. E poi un'altra cosa che comunque, cioè, faceva un po' riflettere, che sembrava che comunque la Bresso fosse tornata un attimino indietro sulle sue posizioni, no? Rispetto all'apertura di un dialogo verso la comunità della Val di Susa, e che questo attacco fosse stato proprio per esasperare gli animi, no? Quindi cercare di provocare i manifestanti in modo da non... cioè evitare il più possibile il dialogo, arrivare allo scontro in modo da comunque criminalizzare quello che state facendo. È quello che stanno cercando di provocare per avere il motivo per darci addosso, più di quanto ci hanno già dato. È vero o non è vero? Comunque sono tutti della stessa forza, eh? Destra, sinistra e tanti quanti ce n'è. Da dividere è grande, quindi adesso ci avviciniamo alle elezioni, allora qualcuno cerca di tenere in piedi le staffe, dice quelle mezze parole, non si compromette, sono tutti a caccia di voti, per cui cercano tutti. Certo. Magari fino a ieri hanno detto bisogna farlo, adesso cominciano a morbidirsi un po', però rimangono sempre, comunque gli ordini di partito sono quelli che sono e bisogna obbedire, anche se si pensa al contrario, bisogna dire quello che si fa dire. Certo, certo. Comunque noi siamo molto uniti, molto convinti, e indipendentemente dalle idee più o meno politiche, c'è gente dell'Azione Cattolica, c'è gente di Rifondazione. No, ma infatti è questa proprio la ricchezza, no? di sì. Questa lotta, proprio la sua eterogeneità, la sua... Anche tra i comitati che hanno colori diversi ci si conosce tutti, ci si frequenta e c'è comunque un affiatamento di fondo, anche se non si condividono tutte le idee, c'è un affiatamento di fondo, si discute, ma non si è mai arrivati a delle rotture, a dei litigi, perché comunque si guarda il fine che è notav, tutto il resto si passa sopra, sulle idee personali, certo, riguardo certo. La politica, certo, c'è gente completamente fuori della politica, c'è gente politicizzata, e però si va d'accordo tutti. Certo. Un accordo, infatti. Si discute come è giusto, ci si trova tra comitati, si fanno il coordinamento dei comitati quando c'è bisogno di decidere qualche cosa, e quindi due o tre rappresentanti di ogni comitato si trovano, discutono e magari alzano anche la voce, però poi alla fine si arriva sempre a prendere delle decisioni concrete in accordo, per dire. Ed è una cosa molto positiva, perché se non ci fosse quello il movimento non avrebbe l'età che ha. Ormai sono 15 anni che questa storia è cominciata, è andata avanti zoppicando per anni, finché poi quando hanno presentato il progetto preliminare, allora ha svegliato un po' tutti. E comunque questo fatto, già la battaglia del Seghino a fine ottobre, è proprio servita, cioè la prepotenza dei militari è servita a svegliare ancora più gente, e questa cosa di Venaus ancora di più, a maggior ragione. È stato un atto veramente prepotente da parte del governo, prepotente, vigliacco, perché aspettano sempre la notte per attaccare quando c'è poca gente. Questo è proprio una cosa vergognosa, da bestie proprio, non da persone. Condivido. Sì, condividiamo tutti.